dice il Signore, il giorno dell'ire del massacro è venuto come un tuono d'estate ed avete conosciuto la morte, la morte. Ed il ladrone s'è mosso di lontano per saccheggiare questa terra. Dice il Signore, non piangete morti senza vita, ma piangete quelli che hanno ucciso, essi saranno morti in eterno, in eterno. Ma dice ancora, nostro Signore, tornerete a possedere i campi in questa terra e voi l'abiterete per sempre in pace.